pensa, non ha il cuore che non va, non è un gioco di parole, ma il vento intorno a me. E se capisco che farà male rinunciare a te, spero sia solo, solo un sogno che non ho fatto mai. Ora che penso a quel vento che sbatteva qui in città, sento l'impianto di quel giorno che ho passato senza te. E se ripenso alle tue mani calde e immobile, so che lo sbaglio se ti dico che ti amo più che mai. Mi vedere e dici un sogno, invece no, sei sempre bella più che mai, sempre raggiungibile. Mm-hmm.